Allora, con un pochino di ritardo il nostro quarto d'ora accademico iniziamo. Io vi do il benvenuto a questo primo incontro del terzo ciclo di Scuola Genitori dell'AGE. Siamo davvero molto contenti di essere riusciti anche quest'anno a proporvi un percorso molto interessante e attuale. E per affrontare il tema del web, dei nuovi media, dei media digitali, abbiamo proprio chiamato uno dei massimi esperti del settore. È un professore dell'Università Cattolica di Milano, insegna didattica e tecnologia dell'istruzione. E poi su questo mondo ha un punto di vista privilegiato, perché è responsabile di un centro di ricerca sull'educazione ai media e alla tecnologia. Quindi in primo luogo voglio ringraziare lui, il professor Pier Cesare Rivoltella, che ha accettato il nostro invito. Ringrazio tutti voi per essere venuti, i soci dell'Associazione AGE che ci hanno dato una mano per l'organizzazione, la Diocesi, l'Ufficio Famiglia, la Pastorale Giovanile che ci ha aiutato a realizzare i volantini, le scuole, il primo, secondo circolo e la media che li hanno distribuiti ad ogni ragazzo delle scuole di Mondovì e la Biblioteca Civica per aver inserito questo ciclo di incontri nel progetto Nati per Leggere che a noi piace davvero tanto, quindi siamo orgogliosi di esserci dentro. E ultimo ma non ultimo la città di Mondovì per averci dato il patrocinio, quindi a questo proposito ringrazio anche il nostro sindaco di essere presente qui con noi questa sera, in quanto genitore soprattutto. E adesso lascio la parola al professore. Buonasera e grazie. Grazie dell'invito, grazie della presentazione. La seconda volta che arrivo da queste parti, la prima è stata a Fossano qualche mese fa e mi fa piacere ritrovarmi con voi per aprire un ciclo di tre incontri tutti dedicati al tema del rapporto tra i nuovi media e l'educazione, con particolare attenzione all'educazione familiare. E i tre incontri li abbiamo pensati in modo tale che il primo, quello di questa sera, possa funzionare da cornice di comprensione delle logiche socioculturali, delle loro implicazioni di cittadinanza, in modo tale che la prossima volta il mio collega Gerolamo Spreafico possa, sulla base di questo sfondo, di questa cornice, occuparsi in maniera più precisa soprattutto dei nuovi comportamenti, con particolare attenzione agli aspetti di criticità, lasciando nel terzo incontro ad Alessandra Carenzio di ragionare sul versante educativo. Quindi, cornice di comprensione, quadro generale stasera, settimana prossima le criticità, l'ultimo incontro, sulla base delle criticità che abbiamo registrato, vediamo come si possa intervenire. Questa è un po' la logica secondo la quale i tre incontri sono stati progettati. È evidente che sulla base delle cose che andrò dicendo, qualche elemento di criticità e qualche spunto di intervento uscirà inevitabilmente anche questa sera, ma la tematizzazione delle criticità e delle possibilità di intervento educativo sarà lo specifico della prossima serata e della terza. Riguardo all'ultima serata, ci si stava chiedendo prima, insieme a Davide, se valutereste la possibilità di renderla interattiva, quindi tecnicamente potreste arrivare l'ultima sera con i vostri dispositivi, tablet piuttosto che PC, piuttosto che smartphone, si potrebbe trovare il modo di generare qui dentro un hotspot gratuito, free, senza password. Questo darebbe la possibilità ad Alessandra Carenzio di non relazionare frontalmente, ma di immaginare una serata un po' laboratoriale e un po' interattiva nella quale abbiate la possibilità di mettere le mani sugli strumenti. Ecco, voi pensateci, casomai con Davide siamo già d'accordo che la prossima settimana si vanno a registrare gli umori. Se tutti dicono benissimo, diamo un taglio interattivo, il terzo e ultimo incontro avrà questo taglio. Ok? Io che cosa ho pensato di proporre questa sera? Vorrei ragionare attorno al concetto di cittadinanza digitale, che secondo me è il concetto chiave attorno al quale è possibile raccogliere le pratiche dei ragazzi e i problemi che le agenzie educative, la famiglia in primis, stanno registrando in relazione a queste pratiche. E su questo concetto, quello di cittadinanza digitale, vorrei ragionare in tre passaggi. Primo passaggio. Vorrei farvi capire perché oggi la cittadinanza digitale è uno dei temi assolutamente al centro, non solo dell'agenda politica, ma anche della quotidianità sociale delle persone. Secondo passaggio, vorrei provare a definire un po' meglio il concetto di cittadinanza digitale, vedendo come è evoluto. Ha vissuto due stagioni di sviluppo, siamo nel mezzo della seconda stagione, capire esattamente cosa significhi oggi cittadinanza digitale consente di essere più presenti dal punto di vista educativo. Terzo passaggio, proverei a vedere insieme a voi quali sono le conseguenze della cittadinanza digitale. E queste conseguenze le raccoglierò attorno a quattro verbi chiave che spero possano diventare anche lo spunto per il nostro dibattito. Quindi, primo passaggio, la cittadinanza digitale, perché è così importante? Secondo passaggio, la cittadinanza digitale, che cosa è? Terzo passaggio, quali sono i verbi della cittadinanza digitale che, secondo me, possono aprire spazi di riflessione per l'educatore, anche il genitore, che evidentemente è un educatore, anzi è l'educatore. Primo passaggio, allora, cerchiamo di ragionare sul perché questo concetto, quello di cittadinanza digitale, sia oggi sempre più centrale. Ecco, secondo me le ragioni vanno cercate nel protagonismo dei media. Nel protagonismo dei media nella nostra vita individuale e nella nostra vita sociale. Vi porto quattro rapidi esempi che consentono immediatamente di comprendere cosa significhi il protagonismo dei media nella vita individuale e sociale. Primo elemento di questo protagonismo, e lo potremmo definire così, la mediatizzazione crescente della scena politica. La mediatizzazione crescente della scena politica. E un sociologo francese, ancora qualche anno fa, si chiama Éric Nevaux, diceva che oggi lo Stato è sempre più sociologo. Che cosa vuol dire che lo Stato è sempre più sociologo? Vuol dire che si serve sempre più degli stessi strumenti di cui si è sempre servita la ricerca sociale e di cui si sono servite e si servono le agenzie di marketing. Lo Stato oggi promuove sondaggi, fa benchmarking, sviluppa le relazioni pubbliche. E se poi pensiamo a come nella nostra vita politica negli ultimi anni la mediatizzazione abbia recitato un ruolo sempre più significativo, capiamo che questa prima dimensione è una dimensione sicuramente importante, sicuramente centrale. Pensate al ruolo dei media nella costruzione della politica italiana, anche soltanto in relazione a due fenomeni. Uno è la traiettoria politica dell'ex premier, che si è costruita quasi integralmente dentro i media, la seconda è, come dire, l'esordio di una formazione politica alle ultime elezioni, che nasce dentro lo spazio del social network e dallo spazio del social network arriva in Parlamento. Allora, c'è un primo aspetto di questa centralità della cittadinanza digitale che ha a che fare con la mediatizzazione della scena politica. Secondo aspetto, si può riassumere attorno al tema della cosiddetta teledemocrazia. Che cos'è la teledemocrazia oggi? È la consapevolezza di poter costruire il consenso e la partecipazione attraverso dinamiche sociali che nascono e si sviluppano dal basso. Le comunità che si raccolgono all'interno della rete, che si raccolgono all'interno del social network, sono comunità sempre più attive in questa direzione, fanno opinione. Pensate a come moltissimi temi sociali, pensate a come moltissime campagne di sensibilizzazione sociale passino proprio dalla rete e attraverso e grazie alla rete vadano ad interpellare le sensibilità e le responsabilità individuali. Pare proprio che buona parte della gestione del pubblico, che buona parte di quello che tradizionalmente si chiamava partecipazione, oggi passi attraverso i media. Terzo fenomeno su cui richiamo la vostra attenzione. Grazie ai media, oggi la percezione, la sensazione che si ha è che il mondiale si contragga nel locale. Qualche anno fa un filosofo francese molto attento a questi temi scriveva che oggi tutto arriva senza più bisogno di partire. Lui individuava nella velocità una categoria per interpretare lo sviluppo dell'uomo nella sua vicenda evolutiva e diceva: beh, l'uomo prima ha introdotto la ruota, poi ha introdotto la macchina a vapore, poi ha inventato il motore a scoppio, poi sono arrivati gli aerei a reazione, e questa è sempre stata una storia di velocità. Era una storia di velocità nella misura in cui l'uomo poteva colmare le distanze in tempi più rapidi, poteva spostarsi nello spazio in maniera sempre più veloce. Internet, da questo punto di vista, costituisce una frattura in questa linea evolutiva. Perché? Perché con Internet la velocità è ancora maggiore, ma è maggiore perché noi non ci spostiamo più. Sono le informazioni che ci arrivano senza più il bisogno che noi ci spostiamo. Allora, la globalità è sempre più nel locale, a livello di visibilità. I fatti del mondo sono sempre più visibili. Quello che oggi possiamo sapere di ciò che accade migliaia di chilometri lontano da noi è impensabile. Il problema qual è? Il problema è che a questa visibilità locale del globale corrisponde una agency, cioè una possibilità di intervento solo nel locale. Quindi tutto ci arriva in casa, la visibilità sul mondo è larga, veramente sembra che i media siano una finestra globale, ma la nostra possibilità di azione, pensateci bene, è sempre più locale. Quarto ed ultimo aspetto, oggi i media sono innegabilmente sempre più protesici e sempre più naturali. Allora, l'idea secondo la quale i media sarebbero nostre protesi è un'idea di McLuhan, che diceva che la radio era un orecchio elettronico, sostanzialmente. E diceva che il libro a stampa, e poi meglio e in maniera più efficace la televisione, era un occhio, prima meccanico e poi elettronico. Cioè, l'idea di McLuhan era che i media protesizzassero i nostri organi di senso, li prolungassero a dismisura nello spazio e nel tempo. Pensate come questo valga oggi con i nuovi media portatili. I dispositivi mobili da questo punto sono veramente l'esito ultimo della protesizzazione. Sono diventati a tal punto nostre protesi che è veramente difficile pensarsi senza. Dimenticare il cellulare a casa, star fuori un'intera giornata senza il cellulare lascia un po' inquieti, che cosa potrà succedere. E al di là della protesizzazione, l'altro fenomeno interessante è la naturalizzazione. Che cosa vuol dire naturalizzazione? Vuol dire che questi dispositivi hanno delle interfacce sempre più facili da utilizzare, sempre più amichevoli. Si naturalizzano nelle nostre vite perché non percepiamo nemmeno più la loro natura di strumenti. Non li percepiamo più come delle macchine estranee. Sembra che si vadano veramente ad innestare nei nostri corpi, nelle nostre vite. Questo è un primo punto che mi sembra interessante mettere a fuoco: la mediatizzazione della scena politica, le possibilità della teledemocrazia, la contrazione del mondiale nel locale, visibilità globale, agency locale, protesizzazione e naturalizzazione dei media, sono tutti fenomeni che ci dicono che cosa? Ci dicono che i nuovi media sono parte delle nostre vite. Ecco perché si può parlare di cittadinanza digitale, ecco perché si è cominciato a porre il problema della cittadinanza, anche il problema o il problema anche della cittadinanza digitale. Sono talmente parte delle nostre vite questi media che la nostra cittadinanza non può fare a meno di declinarsi con essi. La nostra cittadinanza è quella dei nostri figli. Questo è un po' il primo punto che volevo condividere con noi e che mi sembra interessante fissare. E secondo passaggio, quest'idea di cittadinanza digitale, dicevo in apertura, vive due fasi di sviluppo. Quando nasce l'idea della cittadinanza digitale? Nasce su per giù alla metà degli anni 80, nasce in California, nasce attorno ad una community che probabilmente è la community più famosa che si ricordi, si chiamava The Well, e nasce legata al lavoro di uno studioso, di un critico, di un visionario dal nome di Howard Rheingold. Che caratteristiche ha la cittadinanza digitale in quel momento lì, in quella nascita? Beh, l'idea è che grazie alla rete si possa vivere una vita potenziata. È un po' il tema di Matrix. La vita vera, quella veramente degna di essere vissuta perché è vita all'ennesima potenza, è quella dentro la rete, non quella fuori. E capite bene che in quel clima politico questo tema ha particolarmente facile radicamento e adesione. È il tema del liberarsi del corpo per vivere in maniera più leggera e più libera. È l'idea secondo la quale in questo spazio non ci sia un potere che ci controlli. E quindi, come dire, è un po' la stessa utopia di libertà che stava dentro la Beat Generation e che era figlia delle grandi adunanze giovanili di fine anni 60, di primi anni 70, che lì viene a definirsi, viene a tematizzarsi. Il modello della cittadinanza digitale che in questa prima fase si fissa è l'idea di una doppia cittadinanza. In quegli anni lì è come se si avessero due passaporti. C'è un passaporto che è quello della nostra cittadinanza nazionale, come dire, e poi abbiamo un altro spazio di cittadinanza dentro la rete. In questo secondo spazio di cittadinanza, in questo mondo parallelo della rete, siamo più liberi, siamo più vivi, siamo più sociali, abbiamo più possibilità di progettarci. Con gli anni 90, arrivando fino ad oggi, la logica cambia completamente. Cambia completamente perché? Perché la cittadinanza digitale smette di essere pensata come una seconda cittadinanza. Perché i media e in modo particolare la rete internet smette di essere pensata come un mondo parallelo. Nella misura in cui i media si integrano dentro le nostre vite, la cittadinanza digitale non è più qualche cosa di diverso dall'altra cittadinanza, ma ne diventa parte integrante, ne diventa una dimensione costitutiva. E allora all'idea di una cittadinanza doppia si sostituisce l'idea di una cittadinanza sola, della quale la dimensione digitale diventa fondamentale. Questa è un po' l'idea di cittadinanza con cui dobbiamo avere a che fare oggi, che si applica banalmente alla nostra comprensione di quello che i nostri figli fanno con la rete, smettendo di pensare che per loro la medialità sia un'altra dimensione, sia qualche cosa di diverso dalla loro vita di tutti i giorni. Se ci pensate bene, la medialità non è qualche cosa di diverso nemmeno dalla nostra vita di tutti i giorni, figuriamoci dalla vita dei nostri figli. Allora, il secondo passaggio è di fissare il concetto di cittadinanza digitale non come una dimensione altra, ma come una dimensione interna alla cittadinanza di tutti i giorni. Quindi i media sono strumenti attraverso i quali costruiamo la nostra identità, sono strumenti attraverso i quali intavoliamo le nostre relazioni, comunichiamo, costruiamo conoscenza, otteniamo informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo cittadini anche digitali. E allora, se questo è chiaro e siamo tutti d'accordo, proviamo a vedere quali ne siano le conseguenze. E arrivo al punto su cui vorrei soffermarmi un po' di più, perché apre poi lo spazio alla nostra riflessione. Questa società della quale i media sono parte integrante è stata definita da uno studioso inglese scomparso qualche anno fa, Roger Silverstone, una mediapolis. Silverstone diceva: noi viviamo in una città che è la città dei media, e quindi al nostro tipo di sistema sociale, fatto anche di media, Silverstone dava il nome di mediapolis. E per comprendere la mediapolis è interessante individuarne i verbi costitutivi. Lo accennavo all'inizio, questi verbi costitutivi sono quattro. Li enuncio e poi spendo qualche parola di approfondimento su ciascuno di questi verbi. Sono verbi interessanti, sono anche verbi problematici. Primo verbo, apparire. Secondo verbo, rappresentare. Terzo verbo, controllare. Quarto verbo, impegnarsi. Apparire, rappresentare, controllare, impegnarsi. Se ci pensate bene, già possono funzionare come quattro spie per un'analisi del rapporto dei nostri figli con i media e anche del nostro rapporto con i media e con i nostri figli in relazione ai media. E proviamo a vederli da vicino questi verbi, partendo dall'apparire. La Mediapolis, dice Roger Silverstone, è improntata alla logica dell'apparire. È un modello di società dove l'apparire è fondamentale. E lo si capisce se si pensa ad alcuni aspetti, ad alcuni fenomeni. Partiamo da un fenomeno molto vicino a noi e al tema di queste serate, il fenomeno della costruzione identitaria dei preadolescenti e degli adolescenti. La costruzione della loro identità oggi si svolge anche nel social network, non dico soprattutto nel social network, ma anche nel social network. Facebook per un adolescente, per un preadolescente, è uno spazio importante in cui apparire, in cui costruire una propria identità anche attraverso quello che agli altri viene mostrato e con gli altri viene condiviso. Gli psicologi, lo ricordavo già nell'incontro di Fossano, parlano a questo proposito di estroflessione dell'identità. L'estroflessione dell'identità è un costruire l'identità tutto quanto nel fuori e non nel dentro. Questo, come dire, ci aiuta a comprendere le nostre perplessità quando vediamo spesso adolescenti, preadolescenti, ma a dire il vero anche moltissimi adulti, affidare a Facebook moltissimi aspetti che noi diremmo privatissimi e che non ci immagineremmo spostati in uno spazio pubblico, come di fatto Facebook è. E come nel social network, così nella blogosfera, pare che uno degli aspetti della Mediapolis sia questo processo attraverso il quale la gente sposta fuori, le persone tendono a spostare fuori nello spazio pubblico le proprie dinamiche più personali e private. E questo è un primo aspetto molto importante. Nella Mediapolis la logica dell'apparire tipica dei nuovi media rende poroso lo spazio, l'intercapedine che c'è tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Spazio pubblico e spazio privato erano sempre stati ben distinti nelle società precedenti. Oggi, grazie al protagonismo dei media, non è più mica tanto così. Si potrebbero portare tutta una serie di altri esempi per spiegare che cosa significhi l'apparire. Penso, ad esempio, a un altro fenomeno molto diffuso tra i più giovani, che viene definito come autorialità. Si dice che i nuovi media nella Mediapoli sono autoriali, cioè sono qualche cosa grazie a cui, con grande facilità e senza costi, si producono messaggi e si pubblicano, cioè si postano si collocano nello spazio pubblico. Non è difficile oggi fare televisione. Si apre un canale in YouTube, si gira un video con il cellulare e poi si butta sul proprio canale in YouTube. La logica della autorialità facile consente a tutti noi, anche ai nostri figli, basta che abbiano uno smartphone, di diventare autori, cioè di pubblicare dentro lo spazio pubblico. E uno dei macro fenomeni che dentro il social network si osserva è questa corsa alla pubblicazione. Tutti che vogliono condividere note, pensieri, post, fotografie, piccoli video. C'è una febbre autoriale generalizzata, una corsa alla pubblicazione. La logica dell'apparire. La logica dell'apparire. Mio figlio, con cui siamo amici in Facebook, tutte e due i miei figli, a dir la verità, sono miei amici in Facebook, mi viene a cercare per farmi i complimenti quando alcuni dei miei post prendono molti like, molti mi piace. Mi dice, ma 87 mi piace? Capite, la logica è pubblico per essere cool, pubblico per andare forte, pubblico per ottenere apprezzamenti. La logica dell'apparire. Questo ha poi un risvolto non tanto educativo quanto didattico. Penso alla parte di vita che i nostri figli passano a scuola, non in famiglia. Se la Mediapolis, in virtù dell'apparire, è una società marcatamente autoriale, vuol dire che dentro la Mediapolis si producono moltissimi messaggi. Cioè vuol dire che la proliferazione delle informazioni dentro la Mediapolis è enorme. Vuol dire che c'è troppa informazione, c'è molta più informazione di quanta materialmente se ne possa processare e gestire. Non solo, ma se tutti pubblicano, capite che diventa anche veramente difficile capire cosa sia significativo di tutto questo che viene pubblicato. E il problema è di ricerca pertinente, di analisi intelligente, di filtro critico da parte dei ragazzi rispetto alle troppe informazioni che hanno a disposizione. Oggi non c'è problema di reperimento dell'informazione, c'è un problema di selezione dell'informazione. Forse noi ancora ai nostri tempi, parlo per me, avevamo un problema di reperimento dell'informazione. Oggi il problema dei nostri figli è completamente diverso. Se c'è un problema che non hanno è quello di reperire informazioni. Ci navigano dentro le informazioni. E il compito della scuola in che cosa dovrebbe consistere? Qui dovrebbe consistere nel fornire strumenti ai ragazzi perché rispetto a queste informazioni sovrabbondanti si sappiano orientare. E vi faccio un esempio molto concreto. Se c'è un problema che nel web è critico, è di determinare quello che in termine tecnico si chiama la gerarchia delle fonti. Vuol dire cioè che nel web è estremamente difficile capire chi è veramente l'autore di un messaggio, di una informazione. Perché? Perché la logica del web è spesso il prestito, il rilancio, il mirroring, come dicono gli inglesi, cioè l'andare a specchio, quindi è come quando compare un post in Facebook, vi piace e voi lo rilanciate, o come quando in Twitter arriva un tweet che è interessante e viene ritwittato. Si genera una stratificazione di rimandi in virtù della quale diventa difficile capire chi è stato il primo a collocare lì l'informazione e quindi diventa difficile capire di chi sia veramente l'informazione. La settimana scorsa ho restituito un capitolo di tesi ad una mia studentessa di scienza della formazione primaria. Io dico sempre ai miei studenti che chi di Google ferisce, di Google perisce. Perché? Perché quando leggo un periodo troppo scorrevole, troppo forbito, troppo denso di citazioni e di autori e di teorie, capisco che probabilmente c'è qualcosa che non funziona. E allora si prende una frase, la si mette tra virgolette, la si butta in Google e Google restituisce fedelmente la fonte. Ti dà esattamente ragione. Quindi io arrivo da questa ragazza che sta facendo una tesi sul cartone animato, sull'uso didattico del cartone animato, e le dico: signorina, guardi che queste cose che lei scrive le dice questa sua collega che si è laureata all'Università di Bologna, anno accademico 2001-2002, sullo stesso tema. Questa è sbiancata e dice: prof, impossibile, le ho prese da un libro. Allora, capite che il problema è veramente grave. Il problema è veramente grave. Adesso, il prossimo ricevimento è la settimana prossima, siamo d'accordo che mi porti il libro. Così andiamo veramente a riscontrare se questo fantomatico autore, lui per primo, abbia utilizzato questa tesi del 2001-2002. È un esempio che serve a far capire. E come se non bastasse, non c'è più iscrizione di autorialità in questa logica generalizzata dell'apparire. Che cosa vuol dire l'iscrizione di autorialità? Vuol dire che fino a non molto tempo fa il sistema editoriale filtrava l'accesso allo spazio pubblico e garantiva che l'autore fosse un autore. Oggi sapete che non è più così. Non c'è più un solo editore in questo paese, forse sono un po' drastico, ma è così, dal quale non ci si possa presentare con 3 o 4 mila euro e io posso pubblicare qualsiasi cosa. Quindi ciò che mi rende autore diventa a questo livello la mia capacità di abbattere il rischio d'impresa dell'editore, come si dice oggi in maniera elegante. Quindi, come dire, che uno abbia pubblicato un libro non mi garantisce che sia autore. Dall'altra parte, spesso nel web ci sono persone espertissime su certi argomenti che non sono autori, perché non sono dei ricercatori, perché non lavorano all'università, perché non insegnano, eppure sono espertissimi di certi argomenti. Come faccio a distinguere la competenza del signor Nessuno dalla incompetenza di colui che invece si presenta come autore? Capite che è veramente difficile. Per i nostri figli è molto più difficile di quanto non fosse per noi. Sono solo alcuni degli aspetti, alcuni dei problemi che hanno a che fare con il primo dei quattro verbi che fotografano la Mediapolis, l'apparire. Problema dell'identità, l'estroflessione, il rapporto tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, il problema della autorialità, la pubblicazione generalizzata con la difficoltà di capire cosa valga e cosa no. Secondo verbo, rappresentare, rappresentare. Qui occorre fissare subito un'idea. Se c'è una convinzione, se c'è un tema forte dell'educazione ai media da sempre, questo tema forte è di spiegare ai più giovani che le immagini dei media sono delle rappresentazioni, contro il mito della trasparenza dei media. Un tempo si diceva che la televisione è una finestra sul mondo. È un'immagine sbagliata, perché una finestra sul mondo lascia vedere dall'altra parte le cose esattamente come stanno, e invece la televisione l'immagine la costruisce. Quindi non sono specchi o non sono finestre trasparenti, ma sono vetri opachi, sporchi, le immagini dei media. Allora, la realtà restituita dai media è una rappresentazione, cioè è una costruzione. Allora, quest'idea della rappresentazione come costruzione, come non trasparenza, come si lascia leggere oggi, o meglio, quali spunti di riflessione ci lascia dal punto di vista educativo. Anche qui ne accenno due, ce ne potrebbero essere tantissimi, ma io ne accenno due che mi sembrano i principali. Primo spunto. La logica della rappresentazione oggi rischia di farci cedere alla tentazione di pensare che il discorso sia l'azione. Dicono gli studiosi che quel che si verifica oggi è la tentazione di risolvere l'agire nella pratica discorsiva. Passatemi il termine, in Facebook veramente dire è fare. Anche quando penso di partecipare a qualcosa. Nicoletta ha lanciato ieri una pagina in Facebook per lanciare l'evento di questa sera. Bisogna spiegarle che non si può aprire la pagina di un evento il giorno prima dell'evento, bisogna anticipare un attimino, perché altrimenti quella pagina dell'evento non produce il risultato atteso. Poi qui avete già subito una prova del fatto che rappresentare è un costruire, perché Nicoletta ha postato, ma non era lei, era Davide, che con l'account di Nicoletta stava postando quella pagina evento. Benissimo, in quella pagina le persone sono chiamate a cliccare su partecipo, parteciperò, forse parteciperò, non parteciperò. Se io clicco su partecipo e poi non partecipo, chi mi dirà qualcosa? Forse Nicoletta la prossima volta che la vedo, ma non è detto che io conosca personalmente gli organizzatori, perché nella logica di Facebook la pagina può essere girata, può essere replicata sulle pagine personali di ciascuno. Ciascuno in questa sala poteva dire: ma guarda, la metto sulla mia pagina, sul mio profilo, così invito anche altri genitori che io conosco. Quei genitori potrebbero non conoscere gli organizzatori, a quel punto dicono: ma sì, dai, partecipo, e poi non partecipo. E la stessa logica è possibile viverla quando entriamo sulla pagina di una causa umanitaria, mettiamo un like ed è tutto finito. Questo significa ridurre la agency al discorso. È uno dei rischi grossi del social network. Quindi, quella stessa pagina di Facebook che mi consente di sensibilizzarmi su un problema che non conoscevo, estremamente positiva questa cosa. Quella stessa pagina lì mi consente di illudermi che partecipare significhi cliccare un like. Questa è un po' la prima questione. I sociologi la chiamano partecipazione leggera o partecipazione a bassa definizione. È un aspetto interessante perché forse la partecipazione, quella che si sporca le mani e che prova a cambiare qualche cosa, avrebbe bisogno di una alta definizione e di un peso un po' maggiore. Secondo esempio che vi porto del rappresentare, è la problematica del rapporto tra responsabilità e narrazione. In questa logica, in questo spazio di rappresentazione che è la Mediapolis, spesso le narrazioni, sia le narrazioni costruite che le narrazioni recepite, sia i racconti che ascoltiamo, sia i racconti che produciamo, non si accompagnano con la adeguata responsabilità, proprio perché è uno spazio di rappresentazione, proprio perché alla fine la faccia veramente fino in fondo non ce la metto. Che cosa vuol dire che viene meno il rapporto tra la mia responsabilità e le narrazioni di cui sono protagonista o di cui sono autore? Pensate al cyberbullismo. Cyberbullismo è un classico esempio di pratica mediale completamente deresponsabilizzata. È un classico esempio di narrazione, è un digital storytelling, di solito l'azione del cyberbullo. È un digital storytelling perché è di solito un filmatino irridente o addirittura persecutorio girato ai danni del compagno meno cool del gruppo. Lì è una narrazione che io metto in rete e che, in virtù del fatto che questo è uno spazio di rappresentazione, mi lascia completamente deresponsabilizzato rispetto agli effetti. E il corrispettivo, cioè non narrazione prodotta ma narrazione recepita, va cercato nelle molte facce della pratica del download illecito. Tutte le diverse forme di hackeraggio e di pirateria, di scaricamento di contenuti che per qualsiasi motivo non siano leciti, anche quello è un classico esempio di deresponsabilizzazione rispetto ad una narrazione che questa volta non metto in rete, ma scarico. Apparire, rappresentare. Terzo verbo, controllare. Anche qui due suggestioni, due tipi di ragionamento. Primo ragionamento. Si dice da parte degli esperti che i nuovi media ci mettono di fronte ad una situazione di disintermediazione o di demediazione della comunicazione. Che cosa vuol dire che la comunicazione è disintermediata o demediata? Vuol dire quello che dicevamo prima parlando di autorialità. Vuol dire che se io voglio fare del giornalismo oggi posso farlo anche a prescindere dal giornale. Apro un blog e ci tengo sopra le mie notizie, le mie informazioni. Se io voglio fare televisione, apro un canale in YouTube e non ho più bisogno di passare dagli apparati, da quelli che si chiamavano nelle comunicazioni di massa tradizionali gli apparati. Se io volevo comunicare mainstream, avevo sempre bisogno di passare dal giornale, dalla televisione, da chi deteneva i mezzi di comunicazione, come si diceva negli anni 70. Oggi tutti deteniamo i mezzi di comunicazione e non c'è più bisogno della mediazione di nessuno per pubblicare. Questo può essere visto come una grande possibilità di libertà, da una parte, viene meno il controllo dei padroni dei cancelli, viene meno la omologazione del pensiero, ciascuno può dire la sua e lo può fare senza la mediazione di nessun altro. È il vero pluralismo. Se poi ci chiediamo però se sia veramente così, quanto c'è veramente nella rete, nel social network di pluralismo vero. È proprio vero che il Grande Fratello o il pensiero unico non è più in agguato nella realtà dei media di oggi. È proprio vero che internet è uno spazio libero. Guardate che oggi internet, in fondo il web, in fondo, ma non solo il web, è già in mano a quattro grandi gruppi che si chiamano Amazon, eBay, Google e Facebook. Se cercate qualche cosa che non sia di proprietà di queste quattro majors, non dico che rimangano le briciole, ma poco ci manca. E, come avete visto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, qualcuno di questi grandi gruppi sta andando alla conquista anche dei media tradizionali. Fatto scalpore negli Stati Uniti, l'acquisto da parte di Amazon, non ricordo se dell'Herald Tribune o del Washington Post. Comunque si trattava di una delle testate storiche del giornalismo americano. Allora, attenzione, prima di pensare alla rete come uno spazio di libera espressione, probabilmente le stesse logiche di potere, di convergenza che eravamo abituati a conoscere prima di internet si possono ribadire anche oggi dentro la rete. E allora lì, come dire, l'addestramento dei ragazzi ad essere avveduti torna a portare in primo piano l'importanza del pensiero critico. Torna a portare in primo piano l'importanza del pensiero critico. Quando in internet, quando nel web, la percezione che abbiamo è che i servizi siano gratuiti, cominciamo a spiegare ai nostri ragazzi che non sono gratuiti. Perché, anche se non paghi niente, stai regalando dei dati a Google e grazie a quei dati stai aiutando Google a rimanere quotato in borsa. Impegnarsi è l'ultimo verbo sul quale mi intrattengo velocemente e anche chiudo. C'è un aspetto molto bello della neomedialità, cioè il fatto che dentro il social network, dentro la rete, si vadano organizzando gruppi di affinità. O, detto in altri termini, culture partecipative. Che cos'è una cultura partecipativa? Una cultura partecipativa è un gruppo di persone assolutamente orizzontale, tutte quante tenute insieme dall'interesse comune per un tema e che in virtù dell'interesse di questo tema si aiutano, costruiscono insieme attività, conoscenza, servizi, strumenti, senza chiedersi l'un l'altro costi per questi servizi, per questi strumenti, per questa conoscenza. Qualche esempio di questo tipo lo si può trovare nel movimento dell'open source o in quella che si chiama intelligenza collettiva, oppure nel fenomeno cosiddetto del crowdsourcing, cioè dell'andare a cercare risorse sulla base di quello che la gente dice. Credo che tutti voi o buona parte di voi usino TripAdvisor, oppure il già citato Amazon o anche il già citato eBay. sono tutti servizi di rete basati sul crowdsourcing. Come faccio ad essere sicuro che chi mi sta vendendo qualcosa sia affidabile? Me lo dicono le persone che hanno già ottenuto dei servizi da quella persona e che in virtù di quei servizi gli hanno dato un punteggio. Il rating, il punteggio, la classifica su base sociale è l'esempio minimale, residuale del valore che può avere la dimensione sociale, la collaborazione, l'impegno fattivo delle persone nella rete. La percezione è che veramente, se ci si impegna, grazie ai nuovi media si possano fare cose interessanti. Il rovescio della medaglia qual è? È quello che abbiamo già anticipato prima quando parlavamo di partecipazione leggera o di partecipazione a bassa definizione. Chi mi garantisce che lì in gioco non ci sia solo la dimensione emotiva e non una condivisione reale? Qual è la differenza in internet tra l'effervescenza delle emozioni e l'effettiva volontà di condivisione? Ecco, in questa dialettica, nella possibilità di scivolare da una parte o dall'altra, sta l'ambivalenza anche di quest'ultimo verbo. Allora, apparire, rappresentare, controllare e impegnarsi mi sembra possano diventare quattro verbi sui quali esercitarsi per leggere che cosa? L'educabilità, lo spazio di educabilità del proprio figlio, misurando della rete i vantaggi, le risorse, le opportunità, sono tantissime, ma anche i rischi, le criticità non sono poche. Costruire cittadinanza digitale significa minimizzare i rischi, massimizzare le opportunità. La cittadinanza digitale è una delle 8 competenze del framework europeo della cittadinanza. È una raccomandazione, quella del 16 dicembre del 2006, che di per sé avrebbe dovuto costringere, caldamente incoraggiare tutti i paesi della comunità europea a orientare i propri sistemi scolastici in modo tale da intercettare quelle 8 competenze, mettendole al centro della loro attenzione. Una di queste competenze è la competenza digitale. Proprio a sottolineare l'importanza del tema che in questa serata e nelle altre due che seguiranno siamo qui a discutere. Io qui mi fermerei con l'input che avevo in mente di darvi. Buona parte di queste cose sono contenute in un articolo che è appena uscito sulla rivista di Scienze dell'Educazione, il numero 2 del 2013. Se vi fa piacere, vi posso far avere il PDF in posta elettronica in modo tale che lo si possa far girare tra tutti i genitori. Quindi le cose che magari avete questa sera appuntato e che io ho restituito in maniera un po' schematica, dentro questo articolo le potete trovare in maniera diffusa, anche con l'indicazione di una bibliografia di approfondimento per chi magari abbia voglia di leggere e di approfondire. Magari me lo ricordate, Davide e Nicoletta, con una mail, così ve lo giro, e si può usare magari quella pagina in Facebook dell'evento per appendere lì anche il testo della relazione, così i genitori vanno a scaricarselo.